Sta suonando il pistone. Gigi D'Agostino. Pass me the chalice. concedano l'onore in occasione delle nozze di mia figlia. 06. Out of Mind Summer Live 06. Sta suonando il pittore Gigi D'Agostino. Stay ascoltando I granelli di sabbia di Gigi D'Agostino. Inchiette, inchiette, inchiette, inchiette, inchiette, mica minchiette. Put up, put up, put up, put up. Tiene ataque.

giro. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì. Mind Summer Live 06. Sta suonando il pittore Gigi D'Agostino. Looking for the perfect day is what